Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Salve, senta, la chiamo per il biglietto che ha lasciato sul parabrezza della mia macchina, dicendo che è stato lei ad ammaccarla. Beh, innanzitutto volevo ringraziarla per il biglietto perché ormai quasi nessuno fa queste cose, quindi la ringrazio. E a proposito, lei è assicurato, vero? Il biglietto? No, Come? io non ho lasciato nessun biglietto. Scusi? Non ho lasciato nessun biglietto. Aspetti, aspetti, solo per chiarire, io ho un biglietto con questo numero di telefono a cui sto chiamando e con la targa, che quindi dovrebbe essere quella della sua macchina, che ha ammaccato la mia, teoricamente. E lei mi dice di no? Che non è stato lei, quindi? No, no, io non ho ammazzato nessuna macchina. Dove, scusi? Va bene, allora la cosa cambia. Vediamo, Ma io dove? posso fare così, denuncio il sinistro alla mia assicurazione indicando la sua targa perché è l'unica cosa che ho in mano. Lo comunico intanto e poi lei chiarisce tutto con la sua compagnia assicurativa quando la Ma dove, contatteranno. Quindi scusi, le ma spiega quello che le intanto deve dov'è che è spiegare e è successo? finita la storia. Le va bene? Ma intanto adesso? No, non mi va bene, perché intanto devo vedere dov'è. Benissimo, allora vediamo se riesco a farmi Io non ho pagare dalla toccato sua nessuno. assicurazione la riparazione della macchina, così cerco anche di farmela mettere a nuovo, già che ci sono. Grazie tante, davvero Ma gentilissimo. no, no, no, ma non esiste proprio, non esiste proprio, è fuori di testa.